trovato a leggere questo articolo di Fanpage, su Fanpage, che parla di, intanto il titolo, attacchi israeliani nella notte a Gaza, 21 morti, tra le vittime anche un bambino di 5 mesi. Che sembrerebbe, se non ho letto male, una sorta di rappresaglia all'IDF, che sarebbe meglio chiamare IOF, occupazione non difesa. L'IDF dice una rappresaglia a questo, che praticamente l'IDF farebbe riferimento a terroristi, opportunamente Fanpage mette le virgolette, palestinesi che hanno aperto il fuoco nella striscia di Gaza settentrionale. Ora, terroristi o partigiani, prima cosa. Seconda cosa, la rappresaglia quindi uccide così a caso e donne, bambini. Sostanzialmente non c'è molto di diverso rispetto a quello che hanno fatto negli ultimi 2 anni e rotti, ma diciamo forse 80 anche anni. E poi la perla. Le forze di difesa israeliane hanno denunciato una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco quando nella notte, durante attività di routine nei pressi della linea gialla, terroristi hanno aperto il fuoco contro le truppe. Terroristi, ripeto, o partigiani, prima cosa. Seconda cosa, la linea gialla è un'invenzione israeliana per rubare altra terra a Gaza, sostanzialmente. E per secondo gli israeliani un illecito attraversamento di linea gialla. Pochi giorni fa sono stati uccisi 2 bambini, uno dei quali, se non sbaglio, aveva 8 anni, che non erano assolutamente delle minacce. E questa è la situazione, cioè la situazione di un paese occupante che è l'Israele sionista e di un paese occupato che per quanto può cerca di resistere, a me sembra.